abbiamo udito parlare una persona molto conoscente, un conoscitore di questo tema. Sappiamo finora che Trento era in questo periodo un sede, un centro della studia, della produzione a stampa. Adesso abbiamo ricevuto un ritratto, come vuol dire, più completo e valoroso di questo tema. Continuiamo con la relazione del signor Terenzio Cnemmi e il professor Roccia vuole introdurre. Oh, scusi, ho chiesto e ottenuto il permesso di presentare io, il più giovane dei relatori, Terenzio Cnemmi, laureando presso la Scuola di Paleografia e Filologia Musicale di Cremona, famosa scuola come tutti voi conoscete, perché la responsabilità di averlo inserito in questo contesto è tutta mia personale e quindi mi do responsabile di questo. Avevamo, a dir la verità, ricercato un altro relatore per questo tema che mi pare non possa mancare, dei codici musicali del tempo Hindenburg, però non siamo stati assecondati e io ebbi l'occasione felice, dico veramente, di conoscere questo giovane studioso e di conversare alquanto con lui, al punto tale che soggettivamente, dico ancora, ma mi sono sentito legittimato a presentarlo, anche se è ancora laureando e non laureato. A dire il vero, a quest'ora laureato sarebbe se non fosse intervenuto il servizio civile, a cui lui per qualche mese ancora si deve dedicare, e penso però che felicemente concluderà quanto prima. Ecco la ragione del mio intervento, che naturalmente quanto al giudizio complessivo io affido, anche per quanto riguarda le mie colpe, vero, alla vostra discrezione e competenza, con tanti auguri invece per il nostro Terenzio Cnemmi, che adesso vogliamo ascoltare. Ringrazio in primo luogo il Monsignor Roger per la gentile presentazione fatta. Da oltre 100 anni i codici musicali trentini costituiscono una delle fonti più importanti per la conoscenza e lo studio della musica della prima metà del XV secolo. Fu infatti nel 1885 che lo Haberl, nella sua monumentale monografia su Guillaume Dufay, richiamò l'attenzione degli studiosi sulla presenza presso la biblioteca del capitolo della Cattedrale di Trento di 6 codici contenenti musica dell'epoca di Dufay. Negli anni seguenti, dopo varie trattative con le più importanti biblioteche europee, i 6 codici vennero acquistati dal Regio Imperiale Ministero Austriaco per il Culto e l'Istruzione e nel 1891 trasferiti alla Biblioteca Nazionale di Vienna. A Vienna venne loro data l'attuale numerazione, da 87 a 92, e affidati allo studio di Guido Adler e Oswald Köhler, i quali nel 1900 pubblicarono nei volumi 15 e 16 dei Denkmäler der Tonkunst in Österreich l'inventario completo dei 6 manoscritti, una loro molto parziale trascrizione e il primo studio specifico su di essi. Le vicende della Prima Guerra Mondiale permisero allo Stato italiano di rivendicare il possesso dei manoscritti e di ottenerne la restituzione. Nel frattempo, sempre presso la biblioteca del capitolo della Cattedrale di Trento, venne scoperto un 7° manoscritto, sicuramente correlato ai primi 6. In virtù di questo legame, il codice venne siglato col numero 93. L'immediato inventario, eseguito da Rudolf von Ficker e da lui pubblicato nel 61° volume del Denkmäler, citati, del 1924, mostrò una stretta relazione tra questo codice e il codice 90. Il corpus complessivo dei codici trentini risulta quindi attualmente composto da 7 manoscritti. Tale corpus non è però compatto, poiché è il risultato della stratificazione di più manoscritti copiati in tempi e luoghi differenti tra loro e da più copisti. Già lo Haberl distinse i codici 87 e 92 dai rimanenti come un gruppo più antico di manoscritti aventi origine indipendente. Furono però Adler e Köhler ad identificare le tre principali suddivisioni al loro interno. La prima, costituita dagli ultimi due fascicoli del codice 87, le carte da 219 e 265. La seconda, dai primi 12 fascicoli del codice 92, le prime 144 carte in sostanza, e la terza, comprendente la parte principale del codice 87 e la parte successiva, la seconda parte, del codice 92. Ognuna di queste tre sezioni è stato oggetto soltanto negli ultimi anni di studi specifici accurati, che hanno permesso di stabilire sia la data e il luogo della loro copiatura, sia le precise relazioni tra esse e quindi il motivo della loro attuale sistemazione. La prima sezione, quella più antica, che viene ritenuta più antica, è stata oggetto di una tesi di laurea da parte di uno studioso inglese, il professor Robert White, nel 1975, e l'autore propone per questa parte una datazione attorno al 1430 e postula come luogo di copiatura la zona tra l'Alta Savoia e Basilea. La seconda sezione, la parte prima del codice 92, è stata oggetto di studio da parte del professor Ward nel 1975. L'articolo pubblicato in Musica Disciplina mostra come risulti chiaro che il manoscritto, questa parte del manoscritto, venne probabilmente copiato nella regione di Strasburgo-Basilea per l'uso della cappella dell'antipapa Felice V. E il Ward propone per questa sezione una data di copiatura attorno al 1440. Infine, la sezione più recente, la terza, composta dalla prima parte del codice 87 e dalla seconda del codice 92, è stato oggetto da parte del professor Peter White di due studi molto vicini l'uno all'altro nel tempo e molto recenti tra l'altro, relativi alla compilazione di questa sezione e al rapporto tra questa sezione e un altro manoscritto, il manoscritto di Aosta. In entrambi gli articoli si propone come regione di provenienza quella di Strasburgo-Basilea. Riguardo alla data di copiatura, la struttura estremamente complessa della terza sezione fa giustamente supporre al professor Wright che essa è il risultato di più stratificazioni successive, sia di fascicoli, sia di interventi di copiatura, e che questo lavorio sia avvenuto tra la prima metà degli anni 30 e l'inizio degli anni 50. Nell'articolo sulla relazione tra il codice di Trento e il codice di Aosta, più recente nel tempo, il professor White stabilisce inoltre una stretta correlazione tra questa sezione e il manoscritto AD19 della biblioteca del seminario di Aosta, manoscritto la cui provenienza dalla zona di Strasburgo-Basilea è stata ormai comprovata da Marianne Cobain. Anche Tom Ward postula relazioni tra il manoscritto di Aosta e la sezione 92 prima. Da quanto esposto risulta quindi evidente come tutto il materiale dei manoscritti 87 e 92 sia in misura maggiore o minore collegato alla regione intorno a Basilea e quindi all'evento del Concilio di Basilea. Ritengo importante far notare che il principe vescovo Alessandro di Masovia ebbe notevole parte in quel concilio e che egli fu in stretti contatti con l'antipapa Felice V. Forse fu una persona del suo entourage che raccolse il materiale della terza e più recente sezione e che vi aggiunse quello delle sezioni più antiche. La restante parte dei manoscritti, ossia i codici 88, 89, 90 e 91, è d'origine più recente. L'indagine paleografico-codicologica compiuta dalla professoressa Saunders, una tesi di laurea data all'Università di Londra nel 1983, permette di stabilire la seguente cronologia. Il codice più antico risulta essere il codice 90. La data proposta è tra il 1452 e il 1459. Segue il codice 88, data proposta tra il 1456 e il 1462. Quindi il codice 89, tra il 1460 e il 1466. E infine, ultimo codice, il codice 91, tra il 1468 e il 1473. Quindi un arco di circa 20 anni per la copiatura di questa sezione. Il luogo della loro copiatura fu sicuramente Trento. Caso a parte è costituito dal codice 93, sia per la sua storia più recente, sia per la sua struttura, sia per il contenuto. Esso è stato infatti scoperto nel capitolo di Trento, ma non contemporaneamente agli altri sei codici. Inoltre, la maggioranza dei brani ivi contenuti sono presenti nello stesso ordine nel codice 90. Il von Ficker, notando questa singolarità, ritenne il codice 93 copia del codice 90. Questa ipotesi è stata però in seguito rovesciata. Già Renato Lunelli postulò che fosse il codice 90 copia del 93, parzialmente. La nuova ipotesi è stata poi comprovata in modo definitivo dall'articolo della professoressa Saunders pubblicato negli atti del convegno Lawrence Feininger del 1985. La professoressa Saunders fa notare come il codice 93 sia diviso in due parti, di cui la prima, di maggiore entità, costituisce il corpus originario del manoscritto, mentre la seconda, molto più breve, è un'aggiunta, il cui materiale è affine paleograficamente e codicologicamente al codice 90. La datazione proposta è, per la prima parte, quella più cospicua, tra il 1450 e il 1452, mentre per la seconda coincide ovviamente con quella del codice 90, ossia tra il 1452 e il 1459. L'insieme dei sette codici è quindi divisibile in due gruppi, il primo comprendente i codici 87 e 92, con una sua storia e una sua provenienza, e il secondo i codici 88, 89, 90 e 91 e la seconda parte del codice 93. La prima parte dello stesso codice 93 è da ritenersi collegata col gruppo più antico, secondo l'ipotesi della professoressa Saunders, e ne costituisce il contributo più recente del gruppo. Grazie agli ultimi studi è stato possibile identificare i due copisti che vergarono le due parti principali dei due gruppi di codici. Il gruppo più antico è opera di tal Johannes Lupi o Johannes Wolf, nato probabilmente a Bolzano attorno al 1410, dal 1440 al servizio di Federico IV ad Asburgo e quindi dal 1447 fino alla sua morte nel 1467, parroco di Caldaro, cappellano dell'altare maggiore di Santa Massenza nella cattedrale di Trento. Egli copiò la terza sezione, quella comprendente la prima parte del codice 87 e la seconda parte del codice 92, e a questa aggiunse le due sezioni più antiche. Di Giovanni Lupi rimane presso l'archivio capitolare il testamento olografo, databile alla metà degli anni 50, in cui Lupi lega alla chiesa parrocchiale della Beata Vergine Maria in Bolzano omnia cancionalia vel figuratus cantus quos habeo in potestate mea qui sunt sex libri magni et parvi. Risulta evidente che i sei libri citati non corrispondono in toto ai codici trentini, come ipotizzato da Renato Lunelli, a causa dello scarto temporale esistente tra il testamento e i codici del gruppo più recente. È però molto probabile che i tre codici del gruppo più antico abbiano fatto parte di quei sei libri, e mi pare affascinante l'ipotesi proposta sempre dalla professoressa Saunders, che ricostruisce i sei libri citati nel testamento nel modo seguente. Come primo codice la prima parte del codice 87, quindi la seconda parte del codice 87 sempre, la prima parte del codice 92, la seconda parte del codice 92, la prima parte del codice 93 e infine come sesto e ultimo codice il manoscritto di Svetl, di cui ci rimangono solamente cinque carte scritte quasi sicuramente dalla mano del Lupi. Da quanto detto emerge chiaramente come il gruppo più antico dei codici sia giunto a Trento. Il Lupi, sicuramente a Trento dal 1447, deve esservi giunto recando con sé i manoscritti. Pur mancandoci i dati biografici relativi al Lupi per il periodo precedente il 1440, è comunque ipotizzabile che egli abbia partecipato al Concilio di Basilea in quegli anni o già al servizio degli Asburgo, oppure al servizio del suo vescovo Alessandro di Masovia. Il gruppo più recente è invece opera di Johannes Wieser, altro personaggio strettamente legato alla storia della diocesi di Trento. Egli fu rettore della cattedrale di Trento dal 1459 e in seguito divenne segretario e cappellano del vescovo Giovanni Inderbach. È probabile che i due gruppi originariamente formassero il patrimonio musicale personale del Lupi e del Wieser, e che alla morte del Lupi nel 1467 il Wieser abbia potuto incamerarne i codici. Questo avvenne quando Linderbach era già stato eletto vescovo, e quindi tutti i codici devono essere stati noti allo Linderbach, vista la posizione di rilievo tenuta dal Wieser nell'entourage vescovile. Vale la pena di notare che l'intero codice 91 è stato scritto quando già Linderbach era vescovo di Trento, ma altrettanto degno di nota è il fatto che questo codice è l'ultimo cronologicamente e che dopo di esso il Wieser pare essersi disinteressato dei codici. Lo dimostra la mancanza in tutti i codici di qualunque annotazione relativa alle vicende del Beato Simone, mentre gli altri avvenimenti di rilievo che lo precedono vengono dal Wieser registrati. Ad esempio, fa testo, la copiatura di una poesia in onore del vescovo Linderbach, sicuramente relativa all'elezione di questo vescovo, vergata sul primo foglio del fascicolo 18 del manoscritto 89. La ricerca del motivo per cui Wieser cessa ogni contributo ai codici costituisce punto di sicuro interesse. Può essere utile per tale indagine qualche breve osservazione sul repertorio contenuto nei codici. Il gruppo più antico contiene soprattutto composizioni della cosiddetta Ars Nova inglese, compositori come Leonard Power e Dunstable, di compositori continentali attivi presso il Concilio di Basilea, come Brassard, e della terza generazione fiamminga, quella di Dufay e Binchois. Il codice 93, prima sezione, differisce da questo gruppo per la mancanza quasi totale di attribuzioni, ma tramite il confronto con altri codici è possibile stabilire che la maggioranza dei brani attribuibili sono relativi alla terza generazione fiamminga. Il gruppo più recente è pure lui carente di attribuzioni dirette, ma anche qui il confronto con altre fonti permette di stabilire che il contenuto è relativo soprattutto alla terza generazione fiamminga. Molte delle composizioni adespote in tutti i codici sono comunque probabilmente collegabili o ai compositori franco-fiamminghi o a quelli inglesi. Studi esaustivi sul repertorio dei codici trentini mancano, ma da quelli compiuti finora emerge chiaramente che il repertorio relativo al proprio Misse e i brani paraliturgici non hanno punti di contatto con la liturgia praticata a Trento in quell'epoca. Inoltre, le dimensioni dei codici relativamente piccole per l'epoca, la frequente presenza di errori in sede di copiatura e la scrittura spesse volte affrettata dei copisti sono tracce che indicano come questi manoscritti non siano mai stati usati per la pratica musicale e che la loro redazione non è stata effettuata su commissione. I codici, quindi, pur essendo appartenuti a personalità trentine, pur essendo stati in parte copiati a Trento, risultano essere l'emanazione non della pratica musicale trentina, ma delle personalità del Wieser e del Lupi. A questo punto è opportuno ricordare che è proprio negli anni a cavallo della metà del XV secolo che in Italia avviene un fondamentale cambiamento culturale. Il progressivo rinnovamento del cursus studiorum improntato sulle sette arti liberali, secondo l'impostazione tipica del tardo medioevo, attraverso l'introduzione degli studi humanitatis, cambiò in modo profondo l'atteggiamento delle classi colte verso la dotta polifonia anglo-fiamminga. Gradualmente vennero a scomparire quelle persone che avevano praticato o comunque apprezzato la polifonia come un'attività creativa liberale, sostituite da un uditorio umanista diffidente verso l'ars subtilior dei fiamminghi. In ragione di ciò, è ipotizzabile che il disinteresse verso i codici dell'ambiente culturale trentino del periodo di Linderbach vada inquadrato all'interno del cambiamento culturale sopramenzionato. Alla morte del Wieser, i codici furono probabilmente incamerati dal capitolo di Trento e ivi rimasero dimenticati fino al secolo scorso. È quindi ipotesi non priva di fondamento che la disposizione verso la musica a Trento sotto il vescovo Linderbach sia da considerarsi più vicina all'umanesimo che alla dottrina scolastica tardo-medievale e che il vescovo Hindenburg sia da considerarsi, almeno nel rapporto con la musica, molto vicino all'umanesimo italiano. Per concludere, vorrei brevemente tornare sui codici trentini. Dal momento del loro ritrovamento ad oggi, i codici hanno attirato frequentemente l'attenzione degli studiosi, ma è stato soltanto in questi ultimi anni che l'aspetto paleografico-codicologico della raccolta è stato chiarito in modo sufficientemente valido. Molto resta ancora da fare, però. In primo luogo, l'analisi del loro repertorio è ben lontana dall'essere completa. Inoltre, non esiste un'edizione storica dei manoscritti, pur esistendo la parziale edizione di Nermeler, e nonostante molti brani siano stati pubblicati nelle edizioni critiche di specifici musicisti, compositori. Come se non bastasse, la riproduzione anastatica attualmente a disposizione degli studiosi è di cattiva qualità e perciò spesso inutilizzabile da chi intende intraprendere trascrizioni dai codici. Infine, gli invertari del Köhler e del von Ficker andrebbero aggiornati. Molto lavoro è stato compiuto, ma ancora di più è quello che vedo fare attorno a questi codici. Questo qui. Ringrazio il signor Knemi per il suo valido contributo sui codici musicali trentino. Non sono una persona competente in questa sede e non posso dire un giudizio competente